Non troppo vecchio da non poterlo dominare, né troppo giovane da non morire. Questa è la caratteristica ideale per un marito, secondo Lady Susan, il brevissimo romanzo in formato epistolare, divertente e ricco degli humor tipicamente graffiante dell'autrice, scritto da Jane Austen in gioventù con l'unico scopo di intrattenere la sua famiglia e pubblicato dopo la sua dipartita. Il romanzo svela, attraverso lo scambio di lettere tra Lady Susan Vernon, vedova aristocratica ma senza mezzi, egoista e manipolatrice, e la sua amica americana altrettanto cinica, le manovre della stessa Lady Susan per maritare la figlia a un ottimo partito. La figlia, orripilata dalla stupidità del suo ottimo partito, preferirebbe fare l'istitutrice ed essere autonoma, giacché la mancanza di dote non le permette di aspirare ad altro, come era tipico nella società vittoriana. Via via che si leggono le lettere, in realtà diventa chiara l'ipocrisia della madre che vela di buonismo e perbenismo ogni sua azione interessata. Due tra le caratteristiche della società vittoriana che Jane Austen più detestava e metteva in ridicolo nei suoi scritti. Non è chiaro se si tratti di un romanzo più lungo che non è stato finito o di un breve testo che si conclude bruscamente ma con un finale assolutamente inaspettato ed esilarante, nel quale Jane Austen, seppur giovane, dà già prova del lucido e spietato umorismo con il quale descrive senza mezzi termini la società aristocratica e borghese della sua epoca. Il breve romanzo ha il pregio di raccontare chiaramente quale destino spettava alle giovinette di famiglia rinomata, così come pure alle vedove, rimaste senza mezzi a causa della morte del capofamiglia. Le regole allora erano davvero tristi per le donne che rimanevano senza protezione e senza una pensione e dovevano dipendere dall'ospitalità dei familiari, quando questi erano abbastanza generosi da accordargliela. Come scuola delle donne, potremmo spezzare una lancia in favore della velenosa e calcolatrice Lady Susan, ovvero, come spesso abbiamo sostenuto, che cosa ne è di una donna bella e intelligente e brillante quando la società non le dà altra scelta e altro obiettivo che il matrimonio? Quale spreco! Una donna che avrebbe potuto occuparsi di qualcosa di utile, diventare imprenditrice, occuparsi nel sociale, ma che la società patriarcale non trova modo di impiegare se non come moglie. La scalata sociale e il controllo si collocano nell'ampio ventaglio delle competizioni, modalità che non fanno parte della sfera femminile. In una società patriarcale, alle donne che devono adeguarsi alla modalità comportamentale appartenente alla sfera maschile, non resta altro che imparare a competere. In realtà, la modalità femminile è quella cooperativa, che tuttavia, per essere vissuta e agita, necessita di un contesto in cui la cooperazione sia considerata un valore e non una debolezza, come nella società patriarcale, dove viceversa contano il possesso, la capitalizzazione e, in definitiva, l'approccio egoistico alla vita. La nostra simpatia, naturalmente, va a Frederica, figlia di Lady Susan, che timidamente tenta di emanciparsi dalle grinfie e dagli obiettivi della madre e guadagnarsi quell'indipendenza di mezzi e di sentimenti di cui Jane Austen fece il proprio stendardo. La scuola delle donne è deliziata di proporre Lady Susan di Jane Austen, Classic House Book Edizione, traduzione non specificata. Da Devana, buon ascolto. Lettera 1. Lady Susan Vernon a Mr. Vernon, Langford, dicembre. Mio caro cognato, non posso privarmi più a lungo del piacere di approfittare del vostro gentile invito, risalente all'ultima volta che ci siamo separati, di trascorrere qualche settimana con voi a Churchill. E quindi, se voi e Mrs. Vernon non avete nulla in contrario a ricevermi adesso, spero tra qualche giorno di essere presentata a una cognata che ho tanto a lungo desiderato di conoscere. I miei cortesi amici di qui insistono molto affettuosamente affinché io prolunghi la mia permanenza, ma la loro indole aperta e allegra li conduce troppo in società per la mia situazione attuale e il mio stato d'animo, e io aspetto con impazienza il momento in cui sarò ammessa nel vostro delizioso rifugio. Desidero ardentemente conoscere i vostri piccoli cari bambini, nei cui cuori non vedo l'ora di assicurarmi un posto. Avrò presto occasione di usare tutta la mia forza d'animo, dato che sono sul punto di separarmi da mia figlia. La lunga malattia del suo caro padre mi ha impedito di dedicarle quelle attenzioni ugualmente dettate dal dovere e dall'affetto, e ho troppe ragioni per temere che la governante alle cui cure l'avevo affidata fosse impari al compito. Ho perciò deciso di metterla in una delle migliori scuole private di Londra, dove avrò l'opportunità di lasciarla io stessa venendo da voi. Come vedete, sono determinata a non lasciarmi negare l'accesso a Churchill. Sarebbe davvero un grandissimo dolore sapere che non vi è possibile ricevermi la vostra gratissima e affezionatissima cognata, Susan Vernon. Lettera 2. Lady Susan a Mrs. Johnson, Langford. Hai sbagliato, mia cara Alicia, nel credermi stabilita in questo posto per il resto dell'inverno. Mi addolora dirti quanto tu ti sia sbagliata, perché ho raramente passato 3 mesi più piacevoli di quelli che sono appena volati via. Al momento non c'è nulla che vada liscio. Ah, le donne della famiglia sono unite contro di me. Tu avevi previsto come sarebbe andata quando venni per la prima volta a Langford. E Manwaring è così straordinariamente attraente che io stessa non ero priva di inquietudini. Ricordo di essermi detta, mentre mi dirigevo a casa, quest'uomo mi piace, voglia il cielo che non ne venga alcun danno. Ma ero decisa a essere discreta, a tenere presente che ero vedova da soli 4 mesi, a restare il più tranquilla possibile. E lo sono stata, tesoro mio. Non ho accettato le attenzioni di nessuno se non quelle di Manwaring. Ho evitato qualunque generico flirt, non ho privilegiato nessuno al di là di tutti coloro che sono passati da queste parti, salvo Sir James Martin, al quale ho concesso un pizzico di considerazione allo scopo di allontanarlo da Miss Manwaring. Ma se il mondo potesse saperne il motivo, tutti mi renderebbero onore. Sono stata giudicata una madre crudele, ma è stato il sacro impulso dell'affetto materno. È stato l'interesse di mia figlia a guidarmi, e se questa figlia non fosse la più grande babbea sulla faccia della terra, avrei potuto ricevere la giusta ricompensa per i miei sforzi. Sir James mi aveva chiesto la mano di Frederica, ma Frederica, che è nata per essere il tormento della mia vita, ha preferito opporsi con tale violenza a questo matrimonio che ho creduto fosse meglio per il momento accantonare a questo progetto. Più di una volta mi sono pentita di non averlo sposato io stessa, e se solo fosse un po' meno spregevolmente debole di carattere, l'avrei certamente fatto, ma devo ammettere di essere alquanto romantica sotto questo aspetto e che la ricchezza da sola non mi avrebbe appagata. Il risultato di tutto ciò è molto irritante. Sir James se n'è andato, Maria è furibonda e Mrs. Manwaring è insopportabilmente gelosa. In breve, è così gelosa e così in collera con me che nella foga del suo carattere non mi sorprenderebbe vederla appellarsi al suo tutore se le fosse permesso di rivolgersi a lui. Ma in questo tuo marito è dalla mia parte, e la più cortese e la più amabile azione della tua vita è stata di cacciarla via per sempre quando si è sposata. Ti affido perciò il compito di mantenere vivo il suo risentimento. Siamo ora in una triste situazione. Ma in nessuna casa ci sono stati più cambiamenti, l'intera famiglia è in guerra e Manwaring a stento osa rivolgermi la parola. È ora che me ne vada. Ho perciò deciso di lasciarli e spero di passare una piacevole giornata con te a Londra entro la settimana. Se, come sempre, non sono nelle grazie di Mr. Johnson, devi venire da me al numero 10 di Wigmore Street. Ma spero che non sarà così. Perché, visto che Mr. Johnson, con tutti i suoi difetti, è un uomo a cui va sempre riconosciuto il nobile appellativo di rispettabile, e si sa che io sono così intima con sua moglie, il mancarmi di rispetto apparirebbe inopportuno. Toccherò Londra nel mio viaggio verso quel posto insopportabile. Ah, un paesino di campagna, visto che in effetti andrò a Churchill. Perdonami, mia cara, è la mia ultima risorsa. Se solo ci fosse un altro posto in Inghilterra in cui farmi ospitare, oh, io lo preferirei. Charles Vernon lo detesto e temo sua moglie, e tuttavia dovrò restare a Churchill fino a quando non avrò qualcosa di meglio in vista. Ti La mia signorinetta mi accompagnerà a Londra, dove la affiderò alle cure di Miss Summers a Wigmore Street, finché non diventerà un po' più ragionevole. Là potrà fare buone conoscenze, visto che le ragazze appartengono tutte alle migliori famiglie. Il costo è enorme e va molto al di là di quanto io sia in grado di pagare. Addio, ti manderò due righe non appena sarò in città. Sempre tua, Susan Vernon. Lettera 3. Mrs. Vernon a Lady De Courcy, Churchill. Mia cara madre, mi dispiace molto dirvi che non saremo in grado di mantenere la promessa di passare il Natale con voi, e siamo privati di questa gioia da una circostanza che non promette nessuna contropartita. In una lettera al cognato, mio marito, Lady Susan ha espresso l'intenzione di farci visita senza indugio e, dato che con tutta probabilità tale visita è solo una faccenda di convenienza, è impossibile ipotizzarne la durata. Non ero affatto preparata a una tale evenienza, né sono in grado in questo momento di spiegarmi il comportamento di sua signoria. Langford sembrava con tale evidenza il posto fatto per lei da ogni punto di vista, sia per lo stile di vita elegante e dispendioso, sia per il suo particolare attaccamento a Mrs. Mainwaring, che ero ben lungi dall'aspettarmi un onore così immediato, anche se la crescente amicizia dimostrata verso di noi dalla morte del marito mi ha sempre fatto pensare che prima o poi saremmo stati costretti ad ospitarla. Credo che Mr. Vernon sia stato fin troppo gentile nei suoi confronti quando era nello Staffordshire. Il comportamento che ha avuto con lui, indipendentemente dal suo carattere in generale, è stato fin dalle prime avvisaglie del nostro matrimonio abile e meschino, in un modo talmente imperdonabile che nessuno meno amichevole e conciliante di lui avrebbe potuto passarci sopra. E benché come vedova del fratello e in evidenti ristrettezze fosse corretto assisterla finanziariamente, non posso fare a meno di ritenere che l'averla invitata con tanta insistenza a Churchill non fosse affatto necessario. Comunque, disposto com'è lui a pensare sempre bene di tutti, le è bastato mostrare dolore, dichiarare il suo rammarico e formulare generici propositi di prudenza per fare breccia nel suo cuore e indurlo a fidarsi ciecamente della sua sincerità. Ma per quanto mi riguarda non sono ancora convinta e ovviamente ora che Sua Signoria ha scritto non posso arrivare a una decisione fino a quando non avrò compreso meglio le sue reali intenzioni nel venire da noi. Potete quindi immaginare, mia cara signora, con quali sentimenti io guardi al suo arrivo. Conquistare una qualche porzione della mia stima sarà per lei un'occasione per esercitare quelle affascinanti qualità che l'hanno resa famosa. E di certo io farò di tutto per guardarmi dalla sua influenza, se non sarà accompagnata da qualcosa di più concreto. Ha espresso il più ardente desiderio di conoscermi e accenna con molto affetto ai miei bambini, ma non sono affatto così sciocca da credere che una donna che si è comportata con negligenza, se non con crudeltà verso la propria figlia, possa essere affezionata ai miei. Miss Vernon sarà affidata a una scuola a Londra prima che la madre venga da noi, e io ne sono lieta per lei e per me. Per lei sarà certo un vantaggio essere separata dalla madre. E una ragazza di 16 anni che ha ricevuto un'educazione così disgraziata non sarebbe una compagnia desiderabile qui da noi. So che Reginald desiderava da molto incontrare questa affascinante Lady Susan, e contiamo sul fatto che presto ci raggiunga. Sono lieta di sapere che il babbo continua a essere in salute e sono, con i saluti più affettuosi, eccetera, eccetera, Catherine Vernon. Lettera 4. Mr. De Courcy a Mrs. Vernon. Parklands. Mia cara sorella, mi congratulo con te e con Mr. Vernon per essere in procinto di ospitare nella vostra famiglia la più completa civetta d'Inghilterra. Che avesse una fama del genere l'ho sempre saputo, ma ultimamente mi è capitato di apprendere alcuni particolari della sua condotta a Langford che dimostrano come non si limiti a quel genere di amoreggiamenti che accontentano la maggior parte delle persone, ma ambisca alla più appagante gratificazione di rendere infelice un'intera famiglia. Con il suo comportamento nei confronti di Mr. Mainwaring ha reso gelosa e infelice la moglie, e con le attenzioni dedicate a un giovanotto in precedenza attratto dalla sorella di Mr. Mainwaring ha privato un'amabile fanciulla del suo innamorato. Ho saputo tutto questo da un certo Mr. Smith, che ora è in questi paraggi, Ho pranzato con lui da Hurst e Wilford, appena arrivato da Langford, dove è stato per 2 settimane insieme a sua signoria e che ha quindi ben qualificato per fornire notizie. Che donna deve essere! Non vedo l'ora di incontrarla e accetterò di sicuro il tuo cortese invito in modo da farmi un'idea di quegli ammalianti poteri che possono così tanto conquistando nello stesso tempo e nella stessa casa l'affetto di 2 uomini, nessuno dei quali è libero di concederlo. E tutto questo senza il fascino della giovinezza. Sono lieto di sapere che Miss Vernon non verrà con la madre a Churchill, visto che non ha nemmeno la buona educazione a raccomandarla, e secondo la descrizione di Mr. Smith è tanto ottusa quanto orgogliosa. Quando orgoglio e stupidità si uniscono, beh, nemmeno l'ipocrisia riesce a essere degna di nota e Miss Vernon sarà relegata a un inesorabile disprezzo, ma da tutto ciò che ho potuto apprendere, Lady Susan possiede una certa misura di attraente falsità che deve essere piacevole da osservare e da smascherare. Sarò da voi molto presto e sono il tuo affezionato fratello, Reginald De Courcy. Lettera 5. Lady Susan a Mrs. Johnson Churchill. Ho ricevuto il tuo biglietto, mia cara Alicia, proprio mentre stavo per lasciare Londra. E mi rallegro di essere rassicurata circa il fatto che Mr. Johnson non abbia sospettato nulla del tuo appuntamento della sera prima. È indubbiamente meglio ingannarlo completamente, visto che vuole essere testardo, va preso in giro. Sono arrivata sana e salva e non ho motivo di lamentarmi dell'accoglienza di Mr. Vernon. Ma ammetto di non essere ugualmente soddisfatta del comportamento della sua signora. In effetti, si comporta con la massima educazione e all'aria di una donna elegante, ma le sue maniere non sono tali da convincermi che sia ben disposta nei miei confronti. Volevo che fosse contenta di conoscermi. Sono stata amabile per quanto possibile, ma tutto invano. Non le piaccio. Certo, se consideriamo che ho fatto del tutto per impedire che mio cognato la sposasse, questa mancanza di cordialità non è molto sorprendente, ma comunque rivela un animo meschino e vendicativo nell'essere ancora risentita per un progetto che mi ha vista impegnata ben 6 anni fa e che alla fine non ha avuto alcun successo. Talvolta sono quasi propensa a sentirmi pentita per non aver lasciato che Charles comprasse Vernon Castle quando fummo obbligati a venderlo, ma era un periodo difficile, specialmente perché la vendita ebbe luogo proprio mentre stava per sposarsi. E tutti dovrebbero rispettare la delicatezza di quei sentimenti che non mi permettevano di tollerare che la dignità di mio marito venisse screditata, permettendo al fratello minore di prendere possesso della tenuta di famiglia. Se fosse stato possibile sistemare le cose in modo da impedire la necessità per noi di lasciare il castello, se avessimo potuto vivere con Charles e far sì che rimanesse celibe, sarei stata ben lungi dal convincere mio marito a disporre altrimenti, ma Charles era sul punto di sposare Miss De Courcy e un tale evento mi giustificava pienamente. Qui ci sono bambini in abbondanza e che beneficio avrebbe potuto derivarne per me se avesse comprato Vernon Castle? Averlo impedito può forse aver creato nella moglie un'impressione sfavorevole, ma quando c'è la volontà di prendere in antipatia qualcuno, un motivo non manca mai. E quanto all'aspetto economico, la cosa non gli ha impedito di essermi molto utile, mi è tanto caro e così facile da raggirare. La casa è bella, il mobilio all'ultima moda e tutto rivela abbondanza ed eleganza. Charles è molto ricco, ne sono certa. Una volta che un uomo ha associato il suo nome a una banca, sguazza nel denaro, ma non sanno che farci della loro fortuna. Hanno pochissimi ospiti e non vanno mai a Londra se non per affari. Ci annoieremo a morte. Ho intenzione di conquistare il cuore di mia cognata attraverso i figli. So già tutti i loro nomi e sono in procinto di affezionarmi con la massima tenerezza a uno in particolare, un giovane Frederick che mi prendo sulle ginocchia, sospirando a causa del suo caro zio. Povero Mainwaring, non ho bisogno di dirti quanto mi manca, come è perennemente nei miei pensieri. Al mio arrivo ho trovato una sua lettera molto deprimente, piena di ricriminazioni nei confronti della moglie e della sorella e di lamentele sulla crudeltà della sua sorte. Con i Vernon ho fatto passare la lettera come di sua moglie e quando gli scriverò dovrò farlo con la tua copertura. Sempre tua, Susan Vernon. Lettera 6. Mrs. Vernon a Mr. De Courcy Churchill. Ebbene, mio caro Reginald, ho conosciuto questa pericolosa creatura e te ne darò una sommaria descrizione, anche se spero che presto potrai giudicarla di persona. È davvero estremamente attraente. Per quanto tu possa mettere in dubbio il fascino di una signora non più giovane, da parte mia non posso che affermare di aver visto raramente una donna bella come Lady Susan. È di un aspetto biondo, delicato, con begli occhi grigi e ciglia scure. E dall'aspetto non le si darebbe più di 25 anni, benché debba averne in realtà 10 di più. Non ero certamente propensa ad ammirarla, anche se ho sempre sentito parlare della sua bellezza, ma non posso fare a meno di rendermi conto di come possieda una non comune unione di armonia, brillantezza e grazia. Il suo modo di rivolgersi a me è stato così gentile, franco e persino affettuoso che, se non avessi saputo quanto mi abbia sempre avversata per aver sposato Mr. Vernon e che non ci eravamo mai incontrate, l'avrei presa per un'amica intima. Si è propensi, credo, a collegare la civetteria con l'insolenza e ad aspettarsi che un animo sfacciato sia accompagnato da modi altrettanto sfacciati. Io, almeno, mi ero preparata a trovare in Lady Susan una certa misura di confidenza sconveniente, ma la sua espressione è assolutamente dolce. La voce, i modi di una accattivante soavità. Mi dispiace che sia così, perché cosa può essere se non una finzione? Sfortunatamente la si conosce troppo bene. È intelligente, simpatica, ha tutta questa conoscenza del mondo che rende disinvolta la conversazione e parla molto bene, con una felice proprietà di linguaggio che è troppo usata, credo, per far sembrare bianco ciò che è nero. Mi ha già quasi persuasa del suo ardente attaccamento alla figlia, anche se da tanto ero convinta del contrario. Ne parla con una tale tenerezza e una tale trepidazione, lamentando così amaramente la negligenza della sua educazione, che tuttavia definisce come assolutamente inevitabile, che sono costretta a rammentare quante primavere una di seguito all'altra sua signoria ha trascorso a Londra mentre la figlia era abbandonata nello Staffordshire nelle mani di domestiche o di una governante poco meglio di loro per trattenermi dal credere a tutto ciò che dice. Se i suoi modi hanno una tale influenza sul mio animo risentito, puoi immaginare con quanta maggior forza operino sul temperamento generoso di Mr. Vernon. Vorrei poter credere come lui che la scelta di lasciare Langford per Churchill sia stata veramente sua. E se non fosse rimasta lì per 3 mesi, prima di scoprire che il tenore di vita dei suoi amici non era confacente alla sua situazione e ai suoi sentimenti, avrei potuto credere che il turbamento per la perdita di un marito come Mr. Vernon, verso il quale il suo comportamento era stato tutt'altro che ineccepibile, le avesse fatto desiderare un certo periodo di solitudine, ma non posso dimenticare la lunghezza della sua visita ai Manwaring, e quando rifletto sulla diversità della vita che conduceva con loro rispetto a quella a cui dovrà sottomettersi ora, posso solo supporre che il desiderio di ristabilire la sua reputazione, imboccando sia pur tardivamente la strada del decoro, abbia provocato l'allontanamento da una famiglia in compagnia della quale in realtà era stata particolarmente felice. La storia del tuo amico, Mr. Smith, non può essere comunque del tutto vera, vista la regolare corrispondenza che lei intrattiene con Mrs. Manwaring. In ogni caso, deve aver esagerato. Non è possibile che due uomini siano stati ingannati così grossolanamente nello stesso tempo. La tua, eccetera, eccetera. Catherine Vernon. Lettera 7. Lady Susan a Mrs. Johnson Churchill. Mia cara Alicia, sei molto buona a interessarti di Frederica e te ne sono grata, perché è un segno della tua amicizia. Ma dato che non potrei mai dubitare del calore di questa amicizia, sono ben lungi dal pretendere un sacrificio così gravoso. Mia figlia è una ragazza stupida e non ha nulla che la raccomandi. Non voglio perciò che a causa mia tu debba sprecare anche un solo momento del tuo tempo prezioso per mandarla a prendere e farla venire a Edward Street. Specialmente perché qualsiasi visita significherebbe molte ore sottratte al supremo dovere dell'istruzione, ovvero ciò che davvero mi interessa che faccia mentre rimane da Miss Summers. Voglio che suoni e canti con un certo gusto e con un buon grado di sicurezza, visto che ha le mie mani e le mie braccia e una voce passabile. Io sono stata così viziata negli anni della mia infanzia che non sono stata mai costretta a dedicarmi a nulla e di conseguenza non ho acquisito quelle doti che ora sono necessarie per potersi considerare una vera signora. Non che io sia una sostenitrice della moda prevalente di acquisire una conoscenza perfetta in tutte le lingue, le arti e le scienze. È tempo sprecato. Diventare padrona di francese, italiano, tedesco, musica, canto, disegno, eccetera. Farà guadagnare a una donna qualche applauso, ma non aggiungerà un innamorato alla sua lista. Grazie e buone maniere sono, dopo tutto, le cose che hanno più importanza. Non voglio quindi altro per Federica che un'istruzione superficiale. E ho ragione di credere che non rimarrà a scuola abbastanza a lungo da imparare qualcosa di troppo profondo. Spero di vederla sposata a Sir James entro un anno. Tu sai su che cosa è basata la mia speranza, ed è certamente ben fondata perché la scuola deve essere davvero umiliante per una ragazza dell'età di Frederica. E a proposito, a tale scopo faresti meglio a non invitarla più, perché desidero che la sua esperienza sia il più spiacevole possibile. Su Sir James posso contare in qualsiasi momento e potrei fargli rinnovare la proposta con una parola. Nel frattempo, ti darò il fastidio di impedire che si conceda qualche altro legame quando viene a Londra. Chiedigli di tanto in tanto di venire a casa tua e parlagli di Frederica finché non se la dimentichi. Nel complesso, ritengo estremamente encomiabile la mia condotta in questa faccenda e la considero una miscela molto felice di cautela e tenerezza. Altre madri avrebbero insistito per far accettare alla figlia un'offerta così allettante sin dal primo approccio, ma io non me la sentivo di costringere Frederica a un matrimonio al quale il suo cuore si ribellava, e invece di adottare una misura così drastica, mi sono semplicemente proposta di farla diventare una scelta sua, rendendola totalmente infelice finché non l'abbia accettata. Ma basta con questa noiosa ragazza. Ti starai certamente chiedendo come riesca a passare il tempo qui. È la prima settimana è stata di una noia insopportabile. Ora, tuttavia, la cosa inizia a migliorare. La compagnia si è allargata al fratello di Mrs. Vernon, un bel giovanotto che mi fa sperare in qualche svago. C'è qualcosa in lui che mi ha incuriosita, una sorta di impertinenza, di familiarità che gli insegnerò a correggere. È vivace e sembra intelligente, e una volta che gli avrò ispirato un rispetto maggiore verso di me, di quello inculcatogli dai gentili uffici della sorella, potrà essere un gradevole flirt. C'è un piacere squisito nel sottomettere uno spirito insolente, nel veder riconoscere la propria superiorità da parte di una persona pregiudizialmente avversa. L'ho già sconcertato col mio tranquillo riservo e farò di tutto per umiliare sempre di più l'orgoglio di questi presuntuosi De Courcy e per convincere Mrs. Vernon di come i suoi fraterni avvertimenti siano stati spesi invano e per persuadere Reginald che la sorella mi ha scandalosamente calunniata. Questo progetto servirà almeno a distrarmi e mi impedirà di sentire con troppa intensità la terribile separazione da te e da tutti quelli che amo. Addio. Sempre tua, Susan Vernon.